Quel giorno Deborah e Barak, figlio di Abinoam, intonarono un canto. Perché i capi hanno saputo essere tali in Israele, perché il popolo li ha seguiti con entusiasmo, lodate il Signore. Udite, o regnanti, porgete l'orecchio, o principi. Io voglio cantare in onore del Signore. Io scioglierò un canto al Signore, al Dio d'Israele. Signore, quando uscisti da Seir, quando tu avanzasti dai campi di Edom, la terra tremò con fragore, il cielo lasciò cadere la pioggia, i nembi lasciaron cadere la pioggia. I monti furono scossi davanti al Signore, il Sinai vacillò davanti al Signore, Dio d'Israele. Al tempo di Samgar, figlio di Anat, al tempo di Giaele, le strade erano deserte, i viandanti andavano per vie tortuose. Mancavano i capi valorosi in Israele, mancavano, finché non sei sorta tu, o Deborah, non sei sorta tu, madre, in Israele. Israele si scelse nuovi dei, allora il pan d'orzo venne a mancare. Forse che si vedeva uno scudo o una lancia fra 40.000 in Israele. Il mio cuore è coi principi che hanno chiamato Israele, è con coloro che tra il popolo han risposto con ardore. Benedite il Signore. Voi che sedendo su gualdrappe cavalcate asine splendide, e voi che camminate a piedi nelle vie, aprite al canto l'animo vostro. Fra le voci degli arcieri agli abbeveratoi, lì si celebrino i benefici del Signore, i benefici del suo impero su Israele. Allora il popolo del Signore scese alle porte. Su via, Deborah, su via, componi un canto. Muoviti, Barak, cattura chi ti aveva catturato, o figlio di Abinoam. Allora i superstiti dei nobili scesero alla battaglia. Il popolo del Signore scese a combattere per lui in mezzo agli eroi. Di Efraim i principi sono nella valle. Beniamino, suo fratello, è fra le sue truppe. Da Machir sono scesi i campioni, e da Zabulon quelli che marciano col bastone del comando. I principi di Issacar sono con Deborah, e Neftali è con Barak. Si è slanciato nella valle dietro ai suoi passi. Fra i clans di Ruben grandi sono i piani. Allora perché, Ruben, sei restato fra i recinti, a sentire i flauti dei pastori presso ai greggi? Fra i clans di Ruben grandi sono i piani. Galaad si riposa al di là del Giordano, e Dan perché se ne sta sulle navi? Aser rimane sulla riva del mare, se ne sta sdraiato alle sue insenature. Zabulon è un popolo che ha sfidato la morte, e con lui Neftali sulle alture della campagna. Sono venuti i re, hanno attaccato battaglia. Hanno attaccato battaglia i re cananei a Taanach, presso le acque di Megiddo. Non hanno riportato bottino d'argento. Dal cielo hanno combattuto le stelle, hanno combattuto contro Sisara dalle loro vie. Il torrente Chison li ha travolti. Un torrente ha dato loro battaglia. Il torrente Chison ha calpestato con violenza le loro vite. Martellavano il suolo gli zoccoli dei cavalli, galoppo sfrenato dei loro destrieri. Maledite Meroz, dice l'angelo del Signore. Maledite, maledite negli abitanti che non sono venuti in aiuto del Signore, in aiuto del Signore in mezzo agli eroi. Benedetta fra le donne Giaele, benedetta fra le donne della tenda. Aveva chiesto acqua e gli dette del latte. In una coppa da principi gli offrì il fiore del latte. La sua mano afferrò un piolo e la sua destra un maglio da fabbri. percosse Sisara, gli sfracellò la testa, gli fracassò e gli traforò le tempie. Fra i piedi di lei si contorse, cadde e giacque. Fra i suoi piedi si contorse e cadde. Dove si contorse, lì cadde massacrato. Alla finestra si affaccia e sospira la madre di Sisara alle imposte. Perché indugia a venire il suo carro? Perché è sì lento il moto dei suoi carri? Le donne sue sagge le rispondono, e anch'essa ripete fra sé le loro parole. Certo hanno trovato bottino e se lo stanno dividendo. Una, due donne per ogni guerriero, preda di vesti variopinte per Sisara, preda per il mio collo. Un ricamo dai vivi colori, due ricami, preda per il mio collo. Così periranno tutti i tuoi nemici, Signore. Quelli che ti amano siano come il sole, a levarsi in tutta la sua forza. E la regione ebbe pace per 40 anni.